in primo piano. Buona giornata, buona domenica da Mauro Meazza, benvenuti alla nostra rassegna stampa, alla lettura dei giornali. Vediamo allora come hanno scelto di evidenziare i temi della giornata di ieri i quotidiani che trovate questa mattina in edicola. Naturalmente la compresenza di tre manifestazioni, se consideriamo appunto quella del PDL, quella dei Notav e quella di Micromega, dà l'opportunità, diciamo, a tutti i quotidiani di avere titoli differenti, letture differenti della situazione politica, soprattutto che rimane, come sempre, come comprensibile, rimane in evidenza. Allora vediamo ad esempio la Repubblica, che apre con la sfida, possiamo dire, di Berlusconi. Berlusconi pronti al voto è il titolo principale di Repubblica. Il Cavaliere infiamma la piazza a Roma mentre il Premier incaricato avvia le consultazioni. I 5 Stelle sulla TAV, e qui appunto una citazione per l'altra manifestazione, quella che si è svolta in Valsusa, subito una commissione d'inchiesta. Sotto al titolo dedicato a Berlusconi, le dichiarazioni di Bersani: non è una missione impossibile, riferite appunto alla possibilità di formare un governo, una bicamerale per le riforme. Perché non sarebbe una missione impossibile? Francesco Bei, partendo dalla prima pagina di Repubblica, parla di una apertura alla Lega e di un cattolico al Colle. Quindi le due partite del governo e della votazione per la presidenza della Repubblica si intrecciano, secondo appunto la ricostruzione di Repubblica, in questo modo. E poi naturalmente su tutti i quotidiani, con maggiore o minore evidenza, la storica foto dei due papi. Vedere due papi contemporaneamente non capitava, come sappiamo, da cinque secoli, quindi si capisce che l'evento assolutamente storico venga celebrato con evidenza sui quotidiani. Non trova poi le primissime pagine all'interno, ma per così dire le preoccupazioni che risultano prevalenti sulla situazione politica e anche poi con i riflessi sulle condizioni economiche. Ad esempio, ancora da Repubblica, il monito del Fondo Monetario Internazionale: la politica blocca la ripresa economica. Anche Banca Italia ha parlato di rischi dall'incertezza di governo. Interessante, ne daremo conto nelle successive parti di questa trasmissione, la segnalazione di Enrico Franceschini sui pirati elettronici, gli hacker appunto, che mettono a rischio la sicurezza delle automobili. Come sappiamo, le nostre automobili sono sempre più governate dall'elettronica, sempre più parti delle nostre automobili sono governate dall'elettronica, e chiaramente si pone anche un problema di sicurezza, cioè di garantire la sicurezza di questi dispositivi elettronici da eventuali atti di pirateria, di hackeraggio appunto. La Stampa dà ugualmente il primo titolo a Berlusconi. Berlusconi, torniamo al voto, il capo del PDL cambia strategia, un golpe se va, il Colle va al centro-sinistra. E poi la TAV, naturalmente, per la Stampa, Quotidiano di Torino, le vicende della Valsusa sono sempre molto importanti. TAV, i grillini chiedono una commissione di inchiesta. Sopra al titolo, come usa la Stampa, con delle finestre, delle manchette di richiamo, la vicenda dei Marò da una parte, lite Italia-India, pena di morte, nessuna garanzia. Qui c'è questo balletto, direi un po' macabro, tra appunto i ministeri, per cui si discute se si può applicare o non si può applicare la pena di morte nel caso del processo ai due Marò. Ieri è stato escluso dal nostro ministro degli esteri. Sono trappelate però delle correzioni da parte indiana, che hanno detto no, non è assolutamente escluso, potrebbe essere escluso per questo processo. La ricostruzione la trovate poi nelle pagine interne, diciamo, di tutti i quotidiani di oggi. E poi il caso di Berezovsky, suicida, giallo sull'oligarca russo che sfidò Putin, trovato suicida o presunto suicida appunto a Londra. In prima pagina in evidenza anche una notizia che hanno più o meno tutti i quotidiani, molto particolare, perché la casa dell'orrore torna di nuovo ai Lorenzi. Si parla della villetta di Cogne, ricorderete la villetta in cui appunto fu ucciso il piccolo Samuele. Ieri è stata riconsegnata al padre di Samuele 11 anni dopo questo omicidio, e diversi quotidiani, tra cui la Stampa anche per provenienza geografica, dedicano dei servizi a questo. questa vicenda. Vediamo invece come apre il Messaggero, naturalmente anche La Stampa ha la foto dell'abbraccio tra i due papi in prima pagina con grande evidenza, con la dichiarazione "siamo fratelli". Identica foto anche sul Messaggero e anche sul Corriere della Sera, sempre a centro pagina, con ampio spazio per appunto segnalare questo storico, questa storica compresenza dei due pontefici. Bersani apre al PDL sul Colle, il titolo del Messaggero, che quindi cambia prospettiva dalla chiusura, per così dire, di Berlusconi alla apertura di Bersani. Il segretario del Partito Democratico avvia le consultazioni, no alla grande coalizione, ma tratta sulle riforme. Berlusconi in piazza dice: se prendono anche il Quirinale un golpe, siamo pronti al voto. Spazio alla vicenda dei Marò per il Messaggero: garanzia ai Marò, altra lite con l'India, New Delhi nega l'intesa, poi precisa, per quel reato non c'è la pena capitale. Appunto questa rida delle dichiarazioni contraddittorie che si sono succedute nella giornata di ieri. E poi la morte di due persone per aver consumato cibo avariato, si sospetta una cena con alimenti che contenevano botulino, ai confini tra il comune di Fiumicino e quello di Bracciano, segnalato in prima pagina dal Messaggero. Il Corriere della Sera mette la foto dei due papi in cima, proprio sotto la testata, l'abbraccio e la preghiera sullo stesso inginocchiatoio dei due papi fratelli, per segnalare poi i servizi che sono all'interno e per celebrare così questa visita di Francesco, Papa Bergoglio, a Ratzinger, Benedetto XVI, come sapete appunto dimissionario, che ha rinunciato al soglio papale. E questo è in un certo senso il titolo più importante del Corriere della Sera, che poi però al centro pagina ritorna sulle vicende politiche, la porta chiusa di Bersani. Quindi le letture, come dire, anche dei quotidiani sono difformi su queste complicate trattative per formare un governo, per trovare una maggioranza di governo. Se per il Messaggero si possono segnalare delle aperture di Bersani al PDL, se per Repubblica si cercano delle intese appunto mettendo insieme le trattative per il governo e quelle per il Quirinale, di tutt'altra lettura al titolo del Corriere della Sera: la porta chiusa di Bersani, il premier incaricato esclude esecutivi con il PDL e insiste sul conflitto di interessi. Berlusconi che dice: governo insieme o noi, pronti al voto. E poi uno spazio per Cipro. Ecco Cipro perché sul Sole 24 Ore di oggi il titolo più importante non è quello della politica, che pure è presente, da Berlusconi stop a Bersani, larghe intese oppure voto. E poi sempre sul titolo del Sole 24 Ore: Grillini contro la TAV, la ferrovia ad alta velocità, è una devastazione. Il leader PD, qui si riporta sul 24 Ore la dichiarazione di Bersani: la porta è stretta ma altre soluzioni sono più difficili. Secondo Stefano Folli, come sapete notista politico del nostro quotidiano, i toni aspri del comizio romano di Silvio Berlusconi hanno la conseguenza di rendere ancora più stretto il sentiero già angusto su cui si muove il presidente pre-incaricato Bersani, bersaglio di strali polemici senza fine. Ma il titolo principale del Sole 24 Ore è dedicato alla vicenda cipriota, una vicenda che è molto importante per la moneta unica e anche per la capacità di reagire, per mostrare una capacità di reagire finalmente da parte dell'Unione Europea e delle sue istituzioni finanziarie, delle istituzioni di tipo comunitario. Sfida finale sul maxi prelievo, decisivo il Parlamento e oggi vertice dell'Eurogruppo convocato appunto per cercare una soluzione a questa vicenda cipriota. Il governo gioca l'ultima carta, l'AICI in liquidazione, è una, come sapete, la seconda banca del paese, tassa del 20% sui conti oltre 100.000 euro. Questo è il piano cosiddetto, il piano C. Perché il piano C? Perché da una prospettiva iniziale di prelievo progressivo sui vari conti correnti per finanziare la quantità di denaro necessaria, si è passati a un piano B, quello che prevedeva appunto solo una tassazione sopra i 100.000 euro di deposito, e poi adesso si parla di una di questa tassa del 20% con una liquidazione delle banche. Vi segnalo in prima pagina Sole 24 Ore, l'avete sentito anche annunciato nel corso del giornale radio condotto prima da Valentina Furlanetto, il monito del Papa, peccatori sì, corrotti no, è appunto lo scritto finora inedito di Jorge Mario Bergoglio, e questo dà anche naturalmente l'opportunità al Sole 24 Ore di presentare in prima pagina una foto dei due papi, il monito del Papa che dice peccatori sì, corrotti no, e scrive il corrotto passa la vita in mezzo alle scorciatoie dell'opportunismo al prezzo della sua stessa dignità e di quella degli altri. Il testo integrale di questo intervento di Bergoglio è poi riportato a pagina 31, cioè all'interno dell'inserto culturale del Sole 24 Ore, che come sapete esce ogni domenica. Nelle pagine interne del Sole 24 Ore poi ci sono naturalmente una serie di spiegazioni sull'andamento della crisi cipriota, con appunto questi tre piani. Oramai siamo al piano C, come vi dicevo, archiviato il piano A che era di una settimana fa, corretto il piano B, si passa un piano C, prelievo su tutte le banche, torna il prelievo forzoso sui depositi, il pomo della discordia è la Bank of Cyprus dopo la ristrutturazione e le fusioni tra le banche, poi naturalmente il controllo sui movimenti di capitale. In realtà, come sapete, il problema è soprattutto quello di impedire le fughe di capitali, ma anche di reagire alla opacità finanziaria che ha consentito negli anni passati di considerare Cipro come una piazza molto appetibile per chi volesse sottrarre capitali, è successo specialmente con i russi, capitali alla propria amministrazione fiscale. A proposito di fisco, Marco Mobili sul Sole 24 Ore di oggi, in una pagina interna, ci annuncia che è pronto il rinvio della TARES al 2014, che è la TARES. La TARES è la nuova tassa sui rifiuti. Questa tassa, come è stato segnalato nei mesi scorsi, può portare un aumento del carico fiscale sulle famiglie e sulle imprese di almeno 1 miliardo di euro, e allora si sta cercando, anche se in queste condizioni naturalmente rese molto difficili dalla mancanza di un governo, una modalità di rinvio. Scrive Mobili, a bocce ferme l'arrivo a luglio della nuova TARES produrrà un aumento del carico fiscale su famiglie e imprese pari a almeno 1 miliardo di euro. Non solo, lo slittamento del primo pagamento del tributo, che doveva essere pagato ad aprile, poi è stato spostato a luglio, ha creato ulteriori problemi per il possibile blocco del servizio di smaltimento rifiuti. Allora si studia un rinvio al 1° gennaio dell'anno prossimo e una maggiorazione sulla TARSU, cioè l'attuale tassa rifiuti, e la TIA, la tariffa di igiene ambientale, che insieme alla TARSU costituisce il prelievo sui rifiuti, da pagare entro il 31 luglio. C'è uno schema di decreto legge, scrive Mobili, per consentire tutto questo. Queste sono le indicazioni di alcuni dei quotidiani, naturalmente anche da Il Giorno. Le condizioni di Berlusconi sono in prima pagina, ma la foto dei papi occupa davvero lo spazio maggiore proprio in termini di centimetri. E poi L'Avvenire, che non poteva avere altra apertura che Abbraccio di fratelli, cioè dei due papi. Grande spazio alla politica, grande spazio alla politica con scelte diverse per le varie manifestazioni, scelte anche non solo dipendenti dalle linee editoriali diverse dei vari quotidiani, ma anche perché anche quotidiani più equidistanti o meno schierati si sforzano di trovare letture diverse alle dichiarazioni rese ieri da Berlusconi o da Bersani o da quanto emerso ad esempio dalla manifestazione di Micromega o da quella contro l'alta velocità, dove hanno partecipato numerosi i parlamentari neoeletti del Movimento 5 Stelle. Allora, innanzitutto facciamo un po' il punto su quello che dovrà fare il Presidente del Consiglio pre-incaricato, così lo descrive Stefano Folli nella sua nota politica sul Sole 24 Ore di oggi. Allora, questa giornata sarà dedicata agli incontri con CIA, col Diretti, con Fagricoltura, poi Confindustria e poi a chiudere con l'Alleanza delle Cooperative Italiane, quindi diciamo il mondo produttivo nelle sue varie sfaccettature, nelle sue varie rappresentanze, e poi domani i sindacati con CGL, CISL, UIL, Will UGL e Rete Imprese Italia. Sullo sfondo mi sto appoggiando a una bella tabella che viene pubblicata sul Messaggero, nella pagina 3 del Messaggero, in cui si dà conto di quanto ha fatto il Presidente del Consiglio preincaricato ieri e dei compiti che lo aspettano tra oggi e domani. Sempre il Messaggero ricorda in questa tabella che il 15 aprile c'è la convocazione del Parlamento in seduta comune per l'elezione del successore di Giorgio Napolitano. Il quorum da raggiungere, come sappiamo, è dei 2/3 dei grandi elettori, poi dalla terza volta scende la maggioranza degli elettori più uno. Il 15 maggio scade il mandato di Giorgio Napolitano. Il ruolo di Napolitano, due contributi oggi sui giornali da segnalare. Su Libero è abbastanza drastico nella sua titolazione: fine dei giochetti, si torna a votare, Berlusconi va in piazza con il suo popolo, sbarra la strada ai sotterfugi del PD, governo insieme alla luce del sole o le urne, e non s'azzardino a eleggere il capo dello Stato da soli, sarebbe un golpe. Così vengono riassunte le dichiarazioni di ieri di Silvio Berlusconi. E Maurizio Belpietro poi nel suo editoriale è altrettanto tranchant nell'esordio: si vota. Mentre il Pierluigi Bersani inseguiva le farfalle incontrando le parti sociali invece dei partiti, Silvio Berlusconi sbatteva la porta in faccia. Ma perché vi parlavo di Giorgio Napolitano? Perché sempre dalla prima pagina di Libero c'è questo articolo di Giampaolo Pansa che torna su un tema già sollevato da diversi editorialisti, diverse grandi firme del giornalismo italiano. Napolitano resti sul colle più alto. Signor Presidente, venerdì pomeriggio l'ho ascoltata e vista in TV, scrive Pansa, stava leggendo la dichiarazione che affidava a Pierluigi Bersani il compito di accertarsi se è in grado di formare il governo. Ancora una volta, scrive Pansa, sono rimasto colpito dalla sua saggezza politica, dalla sua energia fisica e morale, e da cittadino mi sono posto la domanda che tanti altri italiani si saranno fatti: perché mai la nostra Repubblica dovrebbe privarsi di un capo dello Stato come Giorgio Napolitano? E prosegue ancora l'articolo di Pansa: so bene che la Costituzione stabilisce che il mandato dura un settennato, manca meno di un mese, ma sino a oggi non è stato individuato un candidato capace di raccogliere un consenso trasversale e molto ampio. L'articolo poi prosegue, un lungo articolo su Libero appunto di Giampaolo Pansa, per chiedere a Napolitano di restare ancora sul colle. Crisi economica, sociale e politica, l'Italia ha troppi problemi, così riassume la titolazione del quotidiano. L'Italia ha troppi problemi per rinunciare a una guida forte e autorevole, perciò Presidente non rifiuti l'ipotesi di un secondo mandato. Sullo stesso tema, una scelta interessante, anomala, di Scalfari nel suo consueto editoriale della domenica su Repubblica. Scalfari ha un articolo in cui si parla della mancanza della figura paterna nei nostri anni, nella nostra società. Il padre non c'è più e il paese è impaurito, quindi con un parallelo tra la figura paterna e la figura del Presidente della Repubblica. L'articolo, in tutta la parte ospitata nella prima pagina, è assolutamente dedicato alla figura paterna in generale, non ha citazioni di tipo politico. Qualcuno si incomincia ad accorgere, così inizia Scalfari su Repubblica, che è venuta meno la figura del padre e che questa lacuna di paternità è una delle cause non marginali della perdita di identità e della nevrosi diffusa che da molti anni affligge il nostro paese e non soltanto. Nella maggioranza dei casi l'individuo, abbandonato alla sua solitudine, non ha trovato altro rimedio che quello di confondersi nel branco, cioè in un soggetto anonimo e indifferenziato. La trattazione della mancanza della figura paterna da parte di Scalfari prosegue poi nelle pagine interne. Spiega Scalfari: gli individui non sono in grado di uscire da questa disagiata condizione che, esaltando interessi settoriali e egoismi di gruppo, si allontana sempre di più dalla autoritas produttrice di norme generali, appunto la figura paterna. A un certo punto, diciamo quasi ai 2/3 dell'articolo, si legge poi: il nostro Parlamento dovrà eleggere tra poco un nuovo Presidente della Repubblica, la persona cioè che ha il compito di rappresentare la nazione. Nessuno ignora quanto questa carica sia ambita per i poteri che contiene, l'immagine che conferisce, nessuno ignora che attorno ad essa si accenderanno contrasti e vivaci ambizioni. Il Parlamento, tuttavia, tenga presente che il Presidente di una Repubblica deve essere soprattutto e preliminarmente un pater patrie, cioè un padre della patria. Si potrà discutere se debba provenire da sinistra o da destra, dalla cultura cattolica o laica, se debba essere uomo o donna, ma su un punto non si deve o non si dovrebbe discutere. Il Presidente deve incarnare quella figura paterna che rassicuri la comunità. Ecco, arrivati a questo punto in cui l'articolo di Scalfari ha creato questo parallelo tra la mancanza della figura paterna e in questo momento i dubbi, le perplessità, le preoccupazioni per il venir meno della figura guida di Napolitano, si leggono però queste righe. Il testo che avete fin qui letto non l'ho scritto ieri, ma 15 anni fa, esattamente il 28 dicembre del 98, su questo giornale. Ho deciso di ripubblicarlo perché mi sembra che descriva l'attualità che stiamo vivendo in modo che meglio non avrei saputo fare. Quindi Scalfari ha deciso di ripubblicare un articolo suo di 15 anni fa per segnalare questo parallelo, appunto, nella mancanza della figura paterna nella società contemporanea, e dall'altra parte le preoccupazioni per la prossima mancanza della figura di Napolitano alla Presidenza della Repubblica. Scrive poi nella conclusione, che è, come possiamo dire, originale, non fa parte della riproposta dell'articolo, scrive Scalfari su Repubblica: l'obiettivo comunque è quello di evitare elezioni a breve scadenza che sarebbero letali per la nostra economia e la nostra credibilità internazionale. Ma le cause di quanto sta avvenendo sono assai più profonde della crisi politica, perfino di quella economica. Hanno carattere sistemico ed è proprio questa la ragione che rende attuale quell'articolo di 15 anni fa che mi sono permesso di riproporre alla vostra attenzione. Questa è la scelta, a sorpresa possiamo dire, di Eugenio Scalfari nel suo editoriale, appunto, su Repubblica. Vediamo qualche altra prima pagina, curiosando tra giornali di diversa estrazione, di diversa linea politica. L'Unità parla di ricatto di Berlusconi, il cavaliere governo con noi o al voto, Bersani avvia le consultazioni con le parti sociali. E poi una segnalazione per l'andamento dell'economia, il cattivo andamento dell'economia. Crisi, cresce solo l'usura, questa volta il dato è preso da Confcommercio: 3 imprenditori su 10 ricorrono a prestiti illegali. È quello che è stato segnalato da Confcommercio, appunto, ieri durante il seminario a Cernobbio. E poi anche per l'Unità la storica preghiera dei due papi fratelli, con la fotografia di Francesco e Benedetto XVI allo stesso inginocchiatoio. La stessa fotografia, anche se presa da angolazione diversa, è quella che viene riportata dal Fatto Quotidiano: abbraccio fraterno tra i papi, pregano e discutono di Vatilix, così il Fatto Quotidiano a commento della foto. Il Fatto Quotidiano decide di dare il titolo più importante alle vicende, al confronto a distanza avvenuto ieri tra Bersani e Berlusconi: Bersani o me o il voto, Berlusconi o il colle o il voto. Questo è il riassunto che viene fatto nel titolo del Fatto Quotidiano. L'ex premier riempie Piazza del Popolo a Roma, parla di golpe se non gli danno il Quirinale, in caso di ritorno alle urne già canta vittoria. Intanto il leader PD spera ancora di convincere qualche grillino con l'incandidabilità del Caimano, torna l'ipotesi di un governo elettorale. E poi a centro pagina Movimento 5 Stelle e anche SEL, commissione d'inchiesta sul TAV, sulla TAV, il treno ad alta velocità, ma sul TAV è il testuale di quello che viene pubblicato sul Fatto Quotidiano. Il no all'alta velocità non è una merce di scambio, ha avvertito Crimi ieri in occasione, appunto, della manifestazione. E poi uno spazio più piccolo, un titolo un po' più piccolo, per ricordare la manifestazione di Micromega, per lo B ineleggibile, il B puntato sta per Berlusconi, nella gergo, diciamo, del Fatto Quotidiano: Berlusconi ineleggibile, fuori. Questo per quanto riguarda la prima pagina del Fatto Quotidiano. Il Giornale parla di voglia di voto, il centrodestra in piazza, Bersani rilancia l'ineleggibilità e Berlusconi riunisce il popolo del PDL alle urne per vincere. A Roma il raduno dei trombati anti-CAV, la fiducia dei grillini, ai Notav. Vi segnalo il manifesto Fuori dal tunnel, questo è il titolo scelto dal manifesto per segnalare le vicende politiche di ieri. Si parla in questo modo, però, con questo titolo, soprattutto della manifestazione dei Notav in Valsusa. Anche sul manifesto una foto decisamente più piccola: il Papa incontra l'ex, e poi un sommarietto, un irridente, due cuori e un Vaticano. Questo nella prima pagina del manifesto. Su altri quotidiani come Il Giorno invece grandi foto, come vi dicevo, dell'incontro tra i due papi, dell'abbraccio tra i due papi, siamo fratelli. Queste appunto le frasi che hanno più colpito i colleghi nella giornata di ieri nello scegliere i titoli da evidenziare nella prima pagina. Vi voglio però segnalare in questa ultima parte della trasmissione, in questi ultimi minuti, alcuni contributi altri in qualche modo. Vi dicevo di questo pericolo hacker, pirateria elettronica per le nostre automobili. Ne parla Enrico Franceschini da Londra con un servizio che trovate su Repubblica: computer di bordo, wifi, cioè la tecnologia senza fili, e app, le applicazioni per i tablet, così gli hacker si mettono al volante, rischio sicurezza, i produttori corrono ai ripari. In questo articolo di Franceschini su Repubblica c'è anche a corredo un grande disegno: cosa può fare un hacker. Un hacker potrebbe aumentare i giri al minuto, disattivare un cilindro, causare una disfunzione ovviamente al navigatore satellitare, strumento esposto per comprensibili motivi, può disattivare le luci anteriori o posteriori lasciando il guidatore al buio. Questo appunto non è una eventualità remota, ma è effettivamente la vulnerabilità data dall'aumento dell'elettronica. Tutto questo sulla Repubblica di oggi. Sempre su Repubblica un passaggio che non è rintracciabile con la stessa evidenza in altri giornali, alla manifestazione di ieri di Berlusconi anche dei figuranti, lo riferisce Alessandra Paolini. Sotto il palco, tra i figuranti arrivati in pullman, ci danno 10 euro, arrotondiamo la pensione. E poi il racconto appunto di Alessandra Paolini, che ha seguito questa convocazione di figuranti, cioè persone che sono state portate e, a quanto si capisce appunto dal titolo, compensate 10 euro la paga per restare un paio d'ore davanti al palco. Una miseria, si legge, si lascia scappare uno dei figuranti, ma ho una pensione da schifo e devo arrotondare. Ecco, anche questo commento poi in qualche modo è illuminante quasi quanto la segnalazione dell'articolo su Repubblica. Ultima segnalazione da Repubblica per la riforma Fornero: bocciata la riforma Fornero, scrive Roberto Mania, dal 65% delle piccole imprese, niente lavori fissi e crollano i precari. Questo è un allarme che sul Sole 24 Ore abbiamo lanciato, è stato lanciato già da tempo. Gli effetti della riforma Fornero sui contratti, diciamo, più deboli sono stati molto pesanti, perché in molti casi le incertezze sul nuovo quadro normativo hanno fatto preferire la risoluzione dei contratti di lavoro, dei rapporti che erano in essere, piuttosto che il loro adeguamento a uno status che evidentemente non è stato ben compreso dalle imprese, specialmente, come avverte appunto Mania su Repubblica, dalle piccole e medie imprese. Ma restiamo in tema ferroviario. Vi dicevo ieri la manifestazione in Ottava. Sul Corriere della Sera, Dario Di Vico, l'agenda dei 14 milioni di pendolari che nessuno vuole ancora aprire. L'aumento delle tariffe del 51% e tre cose che si possono fare. Questo nelle pagine interne del Corriere della Sera, per segnalare un tema per così dire noto, ma un po' trascurato probabilmente, ieri tornato d'attualità per la manifestazione contro l'alta velocità. Dario Di Vico segnala che appunto il ritorno all'utilizzo dell'automobile, dato anche dalla necessità di doversi adeguare magari a lavori più scomodi, meno comodi da raggiungere per via naturalmente della crisi, la velocità media sui binari che è ferma a 35 km orari, e quindi le proteste poi di chi viaggia. Per un confronto internazionale Sempre sul Corriere ci ricordano che in Spagna questo stesso tipo di treni viaggia a 51 km all'ora, da noi appunto 35 km orari. L'articolo di Divitco parla di 14 milioni di pendolari stimati in Italia, che sono poi tra questi quelli che stanno pagando i costi della crisi in modo più salato, sono quelli che usano l'auto per recarsi ogni giorno sul posto di lavoro. Molti di loro, scrive Divico, sono operai perché le fabbriche ormai sono tutte fuori dai centri abitati, il resto sono lavoratori flessibili che devono timbrare il cartellino in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico. Un pendolare con auto ha subito l'incremento delle tariffe autostradali e della benzina, usa la sua vettura, quindi spende di più in manutenzione ordinaria e in più con l'accisa sulla benzina, sia con la fiscalità generale, partecipa al sussidio del trasporto locale. Eppure, scrive Divico, non si aggrega, non protesta, di conseguenza non ha voce in capitolo. Diversa invece la vicenda dei pendolari dei pendolari delle ferrovie, dei pendolari dei treni, i quali, avendo, come spiega Divico, il vantaggio di avere una controparte visibile, i gestori ferroviari, di utilizzare le stazioni come luoghi della protesta, ebbene possono diventare molto più visibili sui giornali, e infatti le condizioni disagiate dei pendolari e la loro protesta già da tempo trovano spazio sui maggiori quotidiani. Una segnalazione, vi dicevo in apertura di questa nostra trasmissione, per la Villetta di Cogne, vi segnalo il lavoro fatto dalla Stampa, dove Marco Neirotti, inviato a Cogne, appunto ci racconta della riconsegna al papà del piccolo Samuele della Villetta dell'Orrore, a Stefano Lorenzi, le chiavi dello chalet in cui la Franzoni uccise il figlio. Ricorderete, per l'omicidio la mamma è stata condannata a 16 anni. Questo sulla Stampa di oggi, appunto, dove si racconta di questa villetta che poi è stata, come ricorderete, anche oggetto addirittura di un turismo, di un discutibile turismo nei periodi che erano più vicini appunto alla vicenda di Cogne. Un'ultima segnalazione al Sole 24 Ore, che riassume così la vicenda indiana: smentite indiane, nessun accordo. Il sottosegretario Stefan De Mistura ha detto che la Farnesina ha un documento scritto per quanto riguarda le garanzie sui Marò, ma il ministro degli esteri indiano ha spiegato che il caso non implica la pena di morte, e l'amaro commento del capo di Stato Maggiore della Difesa Luigi Binelli Mantelli, che ha commentato così: è una farsa. Vi segnalo poi che sul Sole 24 Ore di oggi, nella parte di norme e tributi, ci sono anche le anticipazioni su una circolare ministeriale sui call center, quindi parliamo di lavoro, un lavoro che, come sapete, ha bisogno di essere normato, si collega direttamente alla riforma Fornero di cui riferisce Repubblica, all'interno appunto del Sole 24 Ore di oggi. E questa era l'ultima segnalazione. Grazie da parte mia per aver seguito questa trasmissione, grazie a Filippo Aureggi questa mattina in regia. Vi ricordo che nella giornata di oggi sarà molto importante seguire sia le consultazioni, sia come andrà l'Eurogruppo, quindi quali decisioni saranno o non saranno prese sulla vicenda di Cipro. Tutto questo potrete seguirlo naturalmente dalle frequenze di Radio 24, ma anche sul sito di Radio 24, www.radio24.it, e sul sito del Sole 24 Ore, www.ilsole24ore.com. Buona domenica a tutti.